Milán, de verdad, ya no podemos más de la abuelita que dice que lees el periódico mejor que nadie en el mundo. Basta ya, por favor, cambia la sigla. 24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:20 minuti in punto in questo momento, cari ascoltatori. Eccoci qui pronti alla rassegna stampa di 24 mattino. Ovviamente ci sono tante pagine legate al terremoto, anche se la cronaca più aggiornata la trovate proprio qui in diretta su Radio 24 durante tutta la giornata nella programmazione. Però molti giornali aprono su questa vicenda che ancora ha gettato nel panico soprattutto le popolazioni del centro Italia. Allora andiamo a sfogliarli questi quotidiani. È giovedì 27 ottobre, il Sole 24 Ore apre sulle pensioni, tutte le regole per chiedere l'anticipo, l'APE dunque. Ma la maggior parte dei quotidiani si dedica alle nuove scosse di terremoto che hanno colpito tra Umbria e Marche. Il Messaggero: torna l'incubo nel cuore d'Italia. Per il Corriere della Sera: doppio terremoto, crolli e feriti, forti scosse epicentro nelle Marche, paura a Roma. Repubblica: centro Italia, il terremoto infinito. Per La Stampa: torna l'incubo, terremoto sull'Italia. Il Giorno: terremoto, apocalisse infinita. Per Il Manifesto, epicentro Italia, mentre l'Unità, l'Italia trema, notte di paura. Così Avvenire: trema ancora il centro Italia, crolli, blackout e tanta paura. Le aperture, se volete, diverse sono il Fatto Quotidiano: sgominata la banda del ponte di Renzi. Libero anche: retata di ladri ed escort ad alta velocità. Mentre La Verità: la Repubblica dei furti, la gente assediata dai ladri usa Facebook per difendersi, dilagano sui social i gruppi di autoaiuto per proteggere le case. Questo è il titolo di apertura dunque sulla sicurezza delle nostre città. Ma appunto il terremoto, beh, abbiamo sentito in diretta già molte testimonianze, le cronache dei giornali, leggo per esempio dal Messaggero a pagina 2, Renato Pezzini: paura, crolli e feriti, un altro terremoto scuote il centro Italia. Due mesi dopo il terremoto è tornato. Lo stesso carico di violenza che fa tremare i muri, crollare le case, la stessa potenza distruttiva che irrompe nella vita di piccoli paesi appenninici, semina il panico, costringe la gente a fughe senza meta. La differenza è che rispetto al 24 agosto non si segnalano vittime, questo racconta il Messaggero. In realtà, come tutti i giornali andati in stampa, dovrebbe esserci, c'è una vittima legata però a un infarto, insomma la paura per queste scosse. Due, le scosse che ha martellato il centro Italia, poi sono diventate tre nella notte. La prima alle 19:10, magnitudo 5.4, e poi due ore più tardi alle 21:18 un'altra botta ancora più forte, ancora più spaventosa, 5.9 della scala Richter. Per capire, ad Amatrice i sismografi avevano registrato un'intensità di 6.2. In entrambi i casi lo stesso epicentro, tra Visso, Ussita, Castel Sant'Angelo sul Nero, sull'Appennino Marchigiano, al confine con l'Umbria, in Valle Nerina, provincia di Macerata, piccoli paesi arrampicati sui colli, tutti intorno decine di frazioni difficilmente raggiungibili. Noi il sindaco di Ussita l'abbiamo sentito alle 6:30 dicendo che ci sono almeno 300 persone, 250 per la verità, ha detto, ma da una prima stima che hanno dei problemi. E la cronaca proprio di Nicola Catenaro da Ussita sul Corriere della Sera, salto lì a pagina 5: la terra si è spaccata, il paese è finito. Ci sono anche le foto che anche da Camerino, da Norcia, davvero terribili, di crolli. E ovviamente anche il panico ad Amatrice, dove si è passata un'altra notte in palestra e dove per alcuni, o comunque fuori dalle case, e dove alcuni temono dopo quello che c'è stato il ritorno di nuove scosse. Anche perché i sismologi si chiedono proprio questo, di che tipo di scosse siano, se siano in qualche modo una conseguenza del terremoto di Amatrice o se sia un nuovo terremoto. Così si è aperta una nuova faglia, pagina 8 del Corriere della Sera, il terremoto originato dall'abbassamento dell'Appennino. Giovanni Caprara: racconta sul Corriere. Repliche tanto forti dopo il terremoto del 24 agosto non le avevamo escluse e ora si sono verificate. Massimiliano Cocco, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, conferma quanto le violente scosse di ieri ancora una volta siano figlie del tragico sisma del 24 agosto, ancora una volta capace di ferire la penisola portando lutti e distruzione. Da allora si erano registrate 20.000 repliche in un'area di 40 chilometri, 15 delle quali di magnitudo tra 4 e 5 e 250 di queste scosse tra magnitudo tra 3 e 4. Finché non è arrivato lo scossone di ieri, uguale nell'intensità a quello che si era manifestato un'ora dopo il sisma più grave. L'epicentro, 3 chilometri da Castel Sant'Angelo sul Nera, 10 chilometri a sud di Norcia, sul confine tra Marche e Umbria. La seconda scossa, poco più a nord. Dunque, racconta Massimiliano Cocco, appunto, è una conseguenza di quel terremoto. Anche Repubblica, effetto domino, la nuova faglia attivata dal sisma di Amatrice, fa registrare un Appennino instabile. Ovviamente, nel leggere queste notizie potete immaginare la preoccupazione di tutti coloro che vivono proprio in quelle zone. Va bene, comunque del terremoto vi terremo aggiornati. Radio 24, sapete, come sempre è un canale aperto in questi casi, vi diamo informazioni continue durante l'arco della giornata, non vi abbandoniamo per un secondo tra i programmi e giornali radio, quindi state con noi. E comincio a concentrarmi su altre letture di articoli sui quotidiani, ce ne sono tante di notizie. Intanto questa di un sindaco, ma davvero quando leggo queste cose mi chiedo se l'Italia sia un paese normale. Per carità, a trovare sempre queste notizie sembra di no, ci sono anche tante cose che funzionano, eh. Sindaco senza soldi pota le piante da solo e viene multato. Lo racconta Libero, succede a Gombito, in provincia di Cremona, la disavventura del primo cittadino Massimo Caravaggio. Che è successo a Gombito? Sindaci tutto fare, attenzione, come racconta Giuseppe Olivetti nel suo articolo. Da oggi l'eccesso di volontariato è vietato, è la lezione che si ricava dal caso di Massimo Caravaggio, sindaco di Gombito, multato per aver personalmente tagliato gli alberi perché non poteva attingere dalle casse vuote del comune. Si è messo lui con un assessore, ha abbattuto una decina di piante, ma sul bilancio, visto che non c'erano soldi, si è dovuto rimboccare le maniche. Denunciato dall'opposizione, non aveva le competenze, è intervenuto l'ispettorato del lavoro e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. L'ispettorato ha verificato che dal suo punto di vista era tutto regolare, chiarisce il sindaco, ma dall'azienda provinciale per i servizi sanitari arrivano una serie di verbali dell'importo complessivo di 3.000 euro in cui si contesta che non sarebbero state rispettate le norme di sicurezza e dunque sindaco multato, non ha rispettato le norme di sicurezza. Sindaco multato, certo, pota le piante e viene multato il sindaco. Invece la notizia che ci ricatapulta qualche anno fa, la notizia che oggi mi fa più incazzare della giornata. Se siete alla guida, mi raccomando, mani ben salde sul volante, anche perché la notizia riguarda i vigili urbani di Roma. Vi ricordate il capodanno di qualche anno fa? 767 vigili urbani improvvisamente malati. Ebbene, i 767 vigili assenti in massa, una coincidenza, lo conferma il giudice del lavoro che boccia l'ipotesi di sciopero mascherato per questa epidemia che colpì Pizzardoni, Capodanno 2015. E Mario Giordano sul quotidiano La Verità, che ne scrive a pagina 11, è stata una coincidenza, si capisce. Non una manovra organizzata, non una ripicca coordinata. Lo ha stabilito il giudice del lavoro, terza sezione Tribunale di Roma. 767 vigili urbani si astengono dal lavoro, tutti insieme, guarda caso tutti a Capodanno, guarda caso tutti nella capitale, ma trattasi esclusivamente di casualità, una maledetta e beffarda casualità. Che ci volete fare? È andata così, lo dice la sentenza, qualcuno aveva la dissenteria, qualcuno il mal di gola, uno la mamma che stava male, l'altro il papà col mal di schiena. 63 sono andate a donare il sangue e non vi stupite, non sapete che è pieno di gente che la notte di Capodanno, anziché il cenone e lo spumante, fa brindisi con l'Avis? Qualcuno aveva mal di denti, qualcuno pure un furuncolo sotto l'ascella, magari un'unghia incarnita, non lo so, comunque proprio non ce la facevano ad alzarsi dal letto in 767 contemporaneamente, ma non si erano messi d'accordo di nulla, di nulla. Non si erano sentiti, non avevano telefonato l'uno con l'altro. Telepatia? Non si sa, ma così è. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Milan, la segretaria dell'informazione. Aspetta che stavo rispondendo via WhatsApp a un ascoltatore. Ecco qua, la segretaria dell'informazione. Va bene. Milionaria, 35, quant'è che è? 75 milioni di euro la segretaria di Caprotti, va bene. Allora l'Europa, ci sono tante notizie. Intanto l'Europa, il deficit in linea, dice il governo nella risposta che sta preparando alla lettera. Emilia Patta e Gianni Trovati raccontano tutti i dettagli a pagina 6 della manovra. Quale sarà il punto della risposta italiana? Se si tolgono dai calcoli del patto di stabilità le spese eccezionali prodotte dal fenomeno migranti e dal piano di sicurezza antisismica, tornato purtroppo di strettissima attualità dopo le forti scosse di ieri tra Marche e Umbria, il deficit messo in programma dall'Italia per l'anno prossimo si ferma all'1,9% del PIL. Cioè mezzo punto sotto il dato di quest'anno, una correzione in linea con le richieste europee, tenendo conto anche di un'inflazione e una crescita più basse del previsto, che si tradurrebbe in un meno 1,2% nel saldo strutturale. Ruota attorno a questo ragionamento la lettera che il governo sta preparando in risposta alle richieste di chiarimenti del progetto di bilancio italiano arrivate da Bruxelles. Quella italiana sarà una risposta basata sui numeri per motivare una manovra che non è destinata a cambiare, perché ha ribadito ancora ieri Renzi, è perfettamente legittima e regolare, si basa sulle regole europee, noi non chiediamo concessioni. Questa è la linea di Renzi. Ma su questo tema, che trovate un po' su tutti i giornali, forse l'intervista più interessante è quella di Maria Serena Natale, a pagina 10 del Corriere della Sera, a Varoufakis, ve lo ricordate? L'ex ministro greco Yanis Varoufakis, ministro delle finanze dal gennaio a luglio del 2015, quando la Grecia era sull'orlo del baratro, lui che prima era con Tsipras e poi ha litigato in maniera furente con lo stesso primo ministro greco. Tanto che inizia questa intervista sul Corriere: contatti con Tsipras? Nessuno. Se ci incontrassimo, dubito che avrebbe qualcosa da dire o il coraggio di guardarmi negli occhi. Eravamo stati eletti per liberare la Grecia dal carcere, la Grecia è ancora prigioniera. Così parla Varoufakis, ex ministro delle finanze. Il titolo dell'intervista: Renzi fa bene a protestare, ma deve ottenere il cambio delle regole. Ha il dovere morale di cambiare le regole a Bruxelles, dice Varoufakis su Renzi. Fa bene a protestare. E poi, riguardo alle elite mondiali, non hanno altro obiettivo che preservare i propri poteri e privilegi attraverso un sistema di distribuzione della ricchezza che avvantaggia non più del 10% della popolazione, condannando il resto a un costante peggioramento. Così dice Varoufakis. L'Europa continua a trattare le singole crisi come se non fossero sintomi di un pericolo comune. La crisi però è europea, non italiana, né greca, né spagnola. Occorre un approccio sistemico, onnicomprensivo, che impedisca situazioni paradossali come quella di oggi, con la Germania che invoca soluzioni ma in realtà fa di tutto per allontanarle. E come sta la sua Grecia? Ogni giorno peggio, dice Varoufakis. La Grecia è stata il canarino mandato in miniera in cerca di gas letali. L'Europa è quella miniera. Per salvarsi ha bisogno di un'utopia. Yanis Varoufakis, intervista al Corriere della Sera, sta dalla parte di Renzi. Tra l'altro sulla manovra spunta questa bella sorpresina, signori. Lo raccontano tutti i giornali. Una bella sorpresa. 1,6 miliardi di aumenti automatici delle accise e oltre a un combinato di tagli alle spese dei ministeri, per coprire eventuali ammanchi del rientro dei capitali nella legalità. Cioè, traduciamola così, se non va bene la voluntary disclosure, hanno già piazzato la classica clausola di salvaguardia, 1.600.000.000 di aumenti automatici delle accise e anche di tagli alle spese dei ministeri. Eccola qui, rispunta la salvaguardia per garantire la manovra. Il governo dice tranquilli, non la useremo assolutamente, cioè perché funzionerà la voluntary disclosure. Ma insomma, questo è il centro dell'articolo di Valentina Conte, per esempio a pagina 17 di Repubblica. Va bene, c'è anche il possibile aumento dell'IVA di 3 punti che non viene cancellato ma spostato al 2018. Facciamo sempre così. Vediamo, forse in là lo mettiamo intanto per salvaguardarci per l'appunto. Poi diciamo che non servirà, non verrà fatto, ma intanto è lì. Oh, a proposito di soldi, a proposito di nuove inchieste, a proposito di accuse di corruzione, devo raccontare la classica vicenda che parte dalle grandi opere, appalti, soldi, corruzione e finisce sempre in Italia inevitabilmente in mignotte. Ecco, l'ho detto nel modo più chiaro perché tutti possano capire. Sempre così. Bisognerebbe fare proprio un'analisi anche sociologica, antropologica, soprattutto di noi uomini italiani, perché alla fin fine si potrà parlare di grandi opere, si potrà parlare di appalti, si potrà parlare, ma alla fine stringi si arriva sempre lì. Soldi ed escort per gli appalti, 35 arresti. Nel mirino le grandi opere, la linea TAV Milano-Genova, la Salerno-Reggio, il Mover di Pisa. Risultato, secondo gli inquirenti, sabbia usata al posto del cemento, tanto che ci sono quelle famose frasi qui il cemento è colla. Tra gli indagati anche il figlio dell'ex ministro Lunardi, mentre finisce in cella il figlio del ragioniere dello Stato Monorchio, ex ragioniere dello Stato Monorchio. Tra l'altro Lunardi fa 2 interviste, una al Corriere della Sera, intervistato a Virginia Piccolillo, prende nettamente le distanze dalla famiglia Monorchio. Mio figlio non ha nulla a che fare con loro. Loro chi? Il figlio del ragionier Monorchio, questi signori arrestati, ci si confonde sui ruoli, la nostra azienda, la Rock Soil, di cui mio figlio è amministratore delegato, fa progettazione, loro invece la direzione dei lavori. Beh, dal tono lei non sembra molto in sintonia, ma assolutamente no, anzi, non mi sono mai piaciuti, hanno già incassi alti dai lavori, sono sempre però in cerca di altre fonti di guadagno. Avevo detto, mi domando come possiate lavorare con certa gente, avevo sempre raccomandato ai miei di fare solo i nostri lavori, che ne abbiamo già abbastanza, è uno studio di 150 persone. Quindi l'ex ministro Lunardi dice, mio figlio davvero non c'entra nulla con quella gente sempre a caccia di soldi. Ma dicevo, alla fin fine, sempre lì, guardate qui Repubblica, dalle intercettazioni, l'articolo di Giuseppe Filetto e Stefano Rigone. Ma le brasiliane non le voglio, meglio le bianche. Eccolo qui. Un imprenditore, non dico il nome, lo trovate su Repubblica, è sputtanato in maniera, pensate se ha una moglie, eccetera. Intanto è su Repubblica, io non lo ripeto il nome. Imprenditore cerca un appalto da assicurarsi per la galleria Vecchie Fornaci e quindi paga al coordinatore di un comitato, di un consorzio, che non citerò ma su Repubblica è citato, gli paga una prostituta, organizza dopo cena hot e per cercare di convincerlo gli dice che non sarà solo, che è stato invitato anche un altro, il vicepresidente del consorzio. È tutto pronto, ci sono Denise e Morena, pronte per loro. Senti, ho 2 amiche brasiliane nere, ti piacciono? No, no, mi fanno schifo nere. Allora, bianche! E poi avanti così, pronto, dove sei? Andiamo a Figa! Beati voi, c'è qualcosa per me! I soldi ce li spendiamo in mignotte! Intercettazione, ma c'hai le pasticche? Tutto così, insomma, alla fine appalti e appalti, ma gira e rigira, si finisce nella smisurata passione, tutto finisce nella smisurata passione degli italiani. Vale a dire, il calcio, Mauro Meazza, com'è andata ieri? Buongiorno, buongiorno. Visto la premessa, sì? Pensavo che andassimo a finire a in un altro modo, però. No, bene, bene, grazie, tutto bene. A differenza di altre squadre di Milano, sì, va bene. Ieri è stata ottenuta una vittoria importante. Ho visto che ti sei appassionato, scusa, ho sentito meglio, sì, ti sei appassionato al lavoro Unter di Scragior. Sì, eh? Sì. Oh, allora, l'articolo di Trovati che già citavi, mm-hmm, di Trovati e Emilia Patta, però spiega che ieri il Ministero è intervenuto a spiegare che le clausole di salvaguardia finora ipotizzate non sono quelle che poi diventeranno la formulazione definitiva nel disegno di legge. Visto che ancora non c'è, è giusto precisare. È il famoso piatto forte della manovra. Perché invece la pericena della manovra, cioè la parte preparatoria, è il decreto legge che è già in vigore e in cui oggi con il Sole 24 Ore trovi quattro pagine nella sezione di norme e tributi, quattro pagine sfilabili, le puoi sfilare proprio, e puoi conservarle. Si parla delle regole IVA. Regole IVA, tra l'altro c'è una stretta sostanziale su alcuni adempimenti per appunto contrastare l'evasione IVA. Ti ha scritto mica l'agenzia delle entrate? Fino a ieri no. Fino a ieri no. Beh, guarda, però sappi che sono già arrivati a 658.000 lettere di invito alla compliance. Oh. Paga. Ti sei dimenticato qualcosa? Sì. Questo è un po' il senso. Invito alla compliance, adesso l'ultimo lotto sono 156.000 lettere per coloro che si sono dimenticati, ad esempio, di presentare la dichiarazione dei redditi. E sono partite queste lettere, ne riferiamo naturalmente in norme e tributi. Oh, ti voglio poi segnalare, oggi mi stai trascurando l'APE. Un pochino la stai trascurando. Beh, allora, tutte le regole per arrivare all'APE, cioè l'anticipo pensionistico, ma credo che ormai questo acronimo sia diventato così famoso da non essere più bisognoso di spiegazioni, ebbene tutte le regole, l'APE partirà dalla SPID, puoi leggere oggi sul Sole 24 Ore, ti è chiaro questo passaggio? L'APE parte dalla SPID? Adesso sì. Vabbè, se non ti è chiaro, senti, leggi sul Sole 24 Ore oggi nelle prime pagine il percorso, come si fa a partire dalla SPID e arrivare all'APE. Oh, naturalmente apprendo con soddisfazione e gioia il cambio di logo di Radio 24, di cui parliamo anche sul Sole 24 Ore. E ne parlate proprio bene, ovviamente. Sì, spieghiamo appunto che c'è questo nuovo logo, c'è un articolo nella nostra parte che si occupa di media, non c'è la tua foto. C'è il logo, è molto meglio il logo della mia foto. C'è il logo, effettivamente c'è il logo, abbiamo preferito quello. Ti voglio dire, nella stessa sezione che trovi tra le pagine di Imprese e Territori, che tu devi leggere sempre scrupolosamente, apprenderai anche che secondo una stima giudicata attendibile vengono piratati 6 film su 10, il 60% dei film dopo neanche una settimana dall'uscita è disponibile in versione illegale. Questa è la sostanza che bisogna dire. Ricordati che oggi con il Sole 24 Ore c'è Come si legge il Sole 24 Ore, non venire a cercarmelo al bar, parole dell'economia, ecco, vai in edicola o puoi ritirare in edicola naturalmente corrispondendo qualcosa. Per il momento è tutto, ci risentiamo domani, caro Alessandro, e soprattutto traffico. Nome? Mario. Cognome? Rossi. Interessi? Cinema, corsa e il 2,5%. Il 2,5%? Ma che interesse è? Ah, è il mio preferito. Me lo offre Conto Progetto, il nuovo conto deposito senza vincoli. Basta andare su www.contoprogetto.it o chiamare l'800 06 0909. Messaggio promozionale. Tasso annuo 2,5% per 90 giorni dall'attivazione per sottoscrizioni entro fine 2016. Tutte le condizioni nei fogli informativi su contoprogetto.it. Strade in diretta. Ben ritrovati di nuovo, una buona mattinata a tutti. Parliamo subito del Lazio, che a causa del terremoto segnaliamo delle deviazioni in alto sulla strada statale 4 via Salaria, in prossimità dello svincolo per la strada provinciale 3 Valle Norcia in direzione Porto d'Ascoli. Troviamo inoltre chiusa per lo stesso motivo la statale 685 delle Tre Valli Umbre tra Casale di Serravalle e Cerreto di Spoleto. Troviamo inoltre traffico molto intenso intorno a Roma, con code sulla 24 Roma-Teramo, tra 7 7 Camini e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo e tra il grande raccordo anulare e via Togliatti verso la tangenziale est. Traffico molto intenso anche in Lombardia intorno a Milano, sulla 4 code tra Pero e Cormano verso Venezia e tra Milano Est e Certosa verso Torino, sulla 8 Milano Varese code tra Castellanza e la barriera di Milano Nord verso Milano, ancora sulla 9 Milano Como tra Uboldo e l'innesto con la 8 verso Milano. Traffico molto intenso anche sulle 3 tangenziali milanesi. E con questo per il momento è tutto, ci risentiamo più tardi. Lo sterzo ha ruotato di 360 gradi. Dalle casse usciva una voce in aramaico antico. E le luci si accendevano da sole. Ok, è il momento di chiamare un concessionario. Smart 18esimo Limited Edition, posseduta dagli Optional. JBL Sound System LED and Sensor e Sport Pack, con una rata dell'altro mondo e un anno di RC auto, furto e incendio inclusi. Solo con Mercedes-Benz Financial. Festeggia in tutti gli smart center e su smart.com. Alessandro Milan, quello che mi risolleva il morale prima del compito di greco. Ma grande, ma che bello, che bello. E adesso compito di greco. Vabbè, però uno l'affronta con il morale alle stelle. Evviva, alle 7.49 minuti, anzi 7.50 minuti, devo raccontare che ci sono tanti articoli legati ai migranti dopo la vicenda di Gorino, le polemiche. Ora a Gorino tornano un po' indietro, dice non avevamo capito che arrivavano delle donne, tra cui una donna incinta. Insomma, ormai il casino è stato combinato, mettiamola così. Ci sono le proposte, il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervistato al Corriere della Sera da Fiorenza Sarzanini, propone per esempio sanzioni ai comuni che non collaborano, premiamo i virtuosi, penalizziamo chi dice no. E riguardo a Firenze, si oppone alla distribuzione disposta dal governo, risponde a questa domanda: noi pensiamo che accogliere queste persone sia giusto e doveroso, diciamo semplicemente che la nostra quota di stranieri ospitati l'abbiamo già raggiunta, invece altri continuano a rifiutare, vogliamo solo che sia riequilibrata la situazione. E questo dice il sindaco di Firenze Nardella. Il sindaco di Milano Sala viene intervistato da Paolo Colonnello sulla Stampa. Rifugiati, studenti e manager, Milano apre le porte a tutti, il nostro modello è la Germania, così dice Sala. Ma proprio sulla Stampa c'è l'articolo, a mio modo di vedere, più interessante, Gabriele Martini a pagina 6. Segnatevi questa cifra: 50.000 persone, 50.000 su 60 milioni di italiani non sono tante, però sono abbastanza, no? 50.000 persone, chi sarebbe? È una stima. Che sarebbe questa cifra? La stima dei diniegati, vengono definiti così. E chi sono? Sono i migranti che hanno fatto richiesta di asilo, ma la loro richiesta è stata respinta, eppure stanno comunque in Italia. Perché? Perché la stragrande maggioranza di costoro sono qui con un foglio di via, non abbiamo i soldi per rispedirli nei loro paesi, nei paesi da cui sono arrivati. Il documento è l'ultima traccia lasciata prima di inabissarsi in una zona grigia. E uno in una zona grigia, quindi non potendo chiedere lavoro, non potendo essere aiutato dalle istituzioni, che fa? Non so, continuate voi la frase, continuate voi. Senza asilo ma non rimpatriati, l'esercito dei migranti fantasma, rischiano ovviamente soprattutto sfruttamento, illegalità, il caporalato, quella, e a volte poi rischiano anche di finire loro a compiere reati per poter vivere. 50.000 la stima secondo la Stampa. Vabbè, trovate ancora tanto del Frigogate. Il Frigogate, controllate e ancorate i vostri frigoriferi in cucina, cari cittadini di Roma, perché pare che i frigoriferi, no? I frigoriferi, come ci ha detto prima Carla Rocchi a Roma, ciondolino per le strade, poi alcuni tornano a casa quando è ora di mangiare, altri no, si abbattono al fianco dei marciapiedi e rimangono lì, e creando un problema. Il Frigogate, le contraddizioni della Raggi, anche Repubblica, dopo quella intervista che ha fatto molto discutere. C'è un'altra intervista che vi segnalo, fa molto discutere, l'intervista che Cristiana Lodi, bravissima, fa per Libero alla mamma di Loris, a Veronica Panarello, condannata in primo grado a 30 anni di carcere per l'omicidio del figlio. Attraverso l'avvocato riesce a intervistarla in carcere. Veronica vuota il sacco, ma solo un po', mi hanno dato 30 anni per aver raccontato la verità. In questa lunga intervista al Libero, indica invece il suocero con il quale dice aveva una relazione come l'assassino. Lo ha strangolato il nonno. Questa intervista la trovate su Libero. Oh, mi sembra giusto, ora lo dice anche l'Ocse. Ci sono ancora tanti che dicono non bisogna far fare i compiti, capito? Il compito di Greco non va bene fatto a casa i compiti non vanno bene, non bisogna studiare, bisogna far giocare i bambini, i ragazzini, devono rilassarsi, devono guardare il cielo, ammirare l'arcobaleno se non piove, devono fare le capriole nei prati se non abitano nel cemento e saltare nei boschi. Risultato, dossier dell'Ocse, negli anni 90 si studiava molto di più. Chi si diploma oggi è meno preparato di quarantenni e cinquantenni. I ragazzi che si diplomano oggi sono meno preparati dei loro predecessori. Gianna Fregonara, pagina 27 del Corriere della Sera. Ma noi facciamo fare loro le capriole, facciamoli vivere in questo modo bucolico. E intanto i cinesi che studiano tanto e di più ci faranno così. Ma siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, mezza pagina di Libero sulla TV del sopore. Qual è la TV del sopore? È nato un sito che mette online tutti quei programmi di fronte ai quali anche gli insonni più duri e temerari crolleranno e con loro la loro palpebra. Ma chi se ne frega!